Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il rito di adorazione, as-salah, è il secondo pilastro dell'Islam. E Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ha dichiarato espressamente nel Corano, alla Sura 4, Aya 103, «Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta», che significa che in verità il rito dell'adorazione è per i credenti un obbligo che deve essere eseguito in tempi prescritti. Sempre nel sublime Corano, Allah rifulga lo splendore della sua luce, indica i tempi nei quali il rito di adorazione deve essere eseguito, ma non ne stabilisce le modalità. Per questo motivo, in relazione alle modalità di esecuzione del rito di adorazione, a vigore quel complesso di ayat nelle quali Allah, rifulga lo splendore della sua luce, conferisce al profeta Muhammad autorità normativa regolamentare, cioè il potere di dettare regole di esecuzione di precetti coranici. Dice Allah nel sublime Corano, sia gloria a Lui l'Altissimo, nella Sura 33, Aya 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quando Allah e l'Apostolo hanno dettato una norma di condotta nella materia regolata, non è più consentito a un credente e a una credente di fare come gli pare, perché chi si comporta così, cioè disobbedisce ad Allah e al suo Apostolo, cade in un profondo fuorviamento. E alla Sura 59, Aya 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَأْخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ciò che l'Apostolo vi dà, prendetelo, e da ciò da cui vi ordina di astenervi, state alla larga. Siate timorati di Allah, in verità Allah è severo nel castigo. E ancora, all'aia 21 della Sura 33 dice: «Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira». C'è per voi nell'Apostolo di Allah il modello esemplare di comportamento per chi desidera Allah e il giorno del giudizio e ricorda soventemente Allah. Alla luce di queste disposizioni divine, le modalità di esecuzione del rito di adorazione sono quelle insegnate dal profeta Muhammad con il suo esempio. Egli, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: «Sollu kama ra'aitumuni usalli», eseguite il rito d'adorazione nel modo in cui l'avete visto eseguire da me.